Radio 24 Reportage. Germania alle urne. Frau Merkel, atto quarto. L'Europa e l'estrema destra. Di Raffaella Calandra. Ich denke, natürlich haben die Frauen jetzt Angst, auf die Straße zu gehen. Was ich finde, ist, es wirft uns Frauen um Jahre zurück. Sehr viele Männer, insbesondere von Migranten, möchten sowieso nicht, dass ihre Frauen auf die Straße gehen haben. Sotto al Duomo di Colonia ora i volti dei candidati si sfidano a distanza dai manifesti, nella consapevolezza che la memoria recente di questa piazza potrebbe spostare non pochi voti in una tornata elettorale che invece di per sé potrebbe essere una cura per l'insonnia, a detta del Wall Street Journal. Tanto sembra scontato il risultato, almeno sulla vittoria. Ma questa resta la locomotiva del vecchio continente e allora, guardando la teoria di manifesti come se fosse una temporanea East Side Gallery di Berlino, si possono leggere in queste urne i nodi passati dell'intera Europa e le sfide future, dall'accoglienza ai migranti al terrorismo all'austerity. Wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas. Wir schaffen das, prometteva al suo paese Angela Merkel 2 anni fa, e questo, da slogan delle porte aperte verso i migranti, sembra destinato a diventare il possibile inno della sua nuova personale vittoria. Ce la faremo, assicurava la cancelliera nella difficile estate del 2015, quando aprì i confini a più di 1 milione di richiedenti asilo, in fuga soprattutto dalle bombe della Siria. E ce la faremo, sembra ripetere ora, sicura e serena, dai manifesti elettorali che invitano domani a votare per una Germania in cui si vive bene e volentieri. Gut und gerne sono gli aggettivi più ripetuti dalla CDU e diventati il filo conduttore anche di canti satirici, dove l'invito ad una nuova giustizia targata SPD si alterna con l'inno della Linke a combattere per un nuovo futuro o di Alternative für Deutschland a fidarsi. Di sicuro, sulla Willkommenspolitik di Frau Merkel, che fece all'inizio crollare la sua popolarità, si giocherà gran parte della percentuale di voto. Bisogna investire ancora nella formazione dei richiedenti asilo, ma il processo di integrazione è in atto, racconta Karl Schwartanz, operatore sociale di Duisburg nel Nord Reno-Vestfalia, il land più popoloso della Germania, l'ex roccaforte rossa che ha voltato le spalle all'SPD di Martin Schulz. Sono processi lenti e complicati. Qui a Duisburg non ci sono stati problemi significativi in questi 2 anni di forte afflusso, ma va anche detto che questa è una città di vecchia tradizione di immigrazione e questo forse semplifica, al contrario di quanto accade nell'ex Germania dell'Est, dove invece il clima è più teso e ci sono stati anche episodi di violenze contro i migranti. Alcuni dei richiedenti asilo arrivati dal 2015 sono stati aiutati da noi con i corsi di lingua e nella ricerca di un'occupazione. Ci sono state anche delle donne arabe che dopo l'arrivo qui in Germania hanno anche lasciato i loro mariti. Storie da un'integrazione lenta, complicata, ma comunque in corso. Storie però ben più silenziose degli attentati di Berlino o Monaco e delle violenze di massa del Capodanno 2016 a Colonia, la cui memoria, con tutti i suoi interrogativi, riemerge ora all'ombra delle urne. Wir sind heute hier, weil in der Silvesternacht ja hier die Vorfälle waren. Il timore di vedere a rischio il proprio stile di vita e la propria identità è un tema che si è imposto nel cuore dell'Europa dopo quegli abusi di massa. Un anno e mezzo dopo, a fronte di 1025 denunce, solo 6 sono state le condanne, ma lo shock di quella notte di San Silvestro ha accelerato il cammino della norma che riduce l'onere della prova per le vittime, proprio come chiesto dalle tante donne che sui gradini del Duomo si ritrovarono ad intonare un canto tradizionale. Una voce ascoltata dalla cancelliera che in tema di diritti è riuscita a dribblare l'SPD anche su un proprio campo, lasciando libertà di voto al suo partito per la legalizzazione dei matrimoni gay. Ma dalla piazza di Colonia è iniziato anche lo scatto finale dell'estrema destra di Alternative für Deutschland, che punta a diventare il terzo partito, e questa potrebbe essere la principale clamorosa incognita di questa tornata elettorale. C'è stata un'invasione di migranti che mettono a rischio il nostro sistema sociale. Arringa Alexander Gaudel, il candidato di spicco, insieme ad Alice Weidel, data dai sondaggi attorno al 10%. I reati contro i centri di accoglienza dei rifugiati sono aumentati, come la consapevolezza che sulla gestione delle forze dell'ordine e sul lavoro di prevenzione antiterrorismo restano ampie falle. Divenuto è un tema di attacco politico. Parola di ex poliziotto della Criminal Poll, Rüdiger Tust. Si è capito, secondo me, che abbiamo avuto problemi nei anni passati nei corpi che sono responsabili per la polizia, per la sicurezza. Dopo gli attentati hanno capito che mancano tanti poliziotti e mancano anche una legge quasi dappertutto. Abbiamo leggi nei altri paesi, leggi della polizia che sono diverse. E secondo me è un scherzo in un'Europa dove si parliamo sempre della necessità di una legge simile e non diversa. In un paese come in Germania è possibile avere leggi diverse per 16 Lenda diverse. Sì. E non è cambiato nulla dopo gli attentati? Non si può dire che non è successo niente. La polizia in Renania-Vestfalia, per esempio, ha capito che mancano tanti poliziotti. C'è un clima dove non è facile adesso, perché le persone che sono rifugiati con motivi bravi sono sempre in una luce scuro, anche quando sono bravi. Una settimana fa un volo in direzione di Afghanistan era pieno di 10 persone, hanno fatto reati gravi qui in Germania. Devono lasciare questo paese, secondo me, anche quando in Afghanistan non è un paese sicuro, rispetto alla legge. Quando no, ciao bello. Nella gran quantità di indecisi risiede anche gran parte della percentuale di voti che raggiungerà l'estrema destra di Alternative für Deutschland e la sua possibilità di entrare per la prima volta al Bundestag. Il desiderio di un voto di protesta è progressivamente cresciuto nel tempo, anche nell'anima più solida del vecchio continente e in entrambe le sue parti, ancora profondamente e intimamente divise. Da un lato ad ovest un'ondata anti-migranti, dall'altra ad est problemi stratificati di una riunificazione non del tutto compiuta, anche se la disoccupazione, che è crollata ad est dal 18,7 del 2005 all'8,5 del 2016, resta comunque sopra la media dell'ovest. Ed è allora, soprattutto, nelle pieghe del rancore e delle delusioni per uno sviluppo non arrivato come promesso, che si trova l'origine del voto di protesta verso l'estrema destra, come analizzato dal professor Ray Colmorgan della Facoltà di Sociologia di Görlitz. Die Ostdeutschen haben nach 1990 Gli abitanti dell'Est hanno avuto, subito dopo la riunificazione della Germania, una crescita relativamente veloce e intensa. E il cancelliere dell'epoca, Helmut Kohl, promise loro che avrebbero avuto paesaggi fioriti al massimo in 10 anni. Così oggi all'Est pensano che non potranno invece mai raggiungere, anche lavorando sodo, stipendi e tenore di vita dell'Ovest, che poi non è quella effettiva. C'è una forma di idealizzazione dell'Ovest. Sono stati profondamente delusi. Un punto importante è che questo non attiene solo l'economia. Molti lamentano di non avere ancora un'effettiva uguaglianza sociale. Tutto questo si traduce in una totale protesta contro il sistema politico e imputano ai politici stratificate delusioni, la colpa delle loro mancate fortune e frustrazioni per non aver raggiunto gli standard dell'Ovest. In sintesi, è un'istanza populista, come certi movimenti anche italiani, che si raggruppa soprattutto nell'AfD, ma un po' anche nell'estrema sinistra della Linle. In gran parte intorno a AfD, però, perché per via dell'ondata migratoria, gli abitanti dell'Est si sentono ancora una volta minacciati nella propria identità. Die Ostdeutschen sehen sich ein weiteres Mal durch die Migrationswelle in ihrer Identität bedroht. Il malessere delle aree più in affanno del paese si mescola e si confonde con le preoccupazioni intorno alla sicurezza delle principali città, dove i ripetuti attentati hanno lasciato ferite e interrogativi. Così sia l'SPD che la CDU in questa campagna elettorale hanno invocato più poliziotti in strada in modo del tutto sovrapponibile, come analizzato in un rapporto dell'associazione Mafia Nein Danke, guidata da Sandro Mattioli. Ci sono molte persone indecise, e quindi potrebbe essere anche una grande sorpresa il risultato di domenica. Dall'associazione abbiamo fatto un'analisi su quello che chiedono i partiti. Sia la SPD sia la CDU vogliono 15.000 nuovi poliziotti però soprattutto sulla strada. Sicuramente è importante, però noi abbiamo anche un problema ben diverso da questo. Gli attentati terroristici che ci sono stati potrebbero favorire anche il voto verso l'estrema destra? Questo sì, ed è una carta che soprattutto la estrema destra, cioè la AfD, gioca molto. Ci sono delle campagne, per esempio su Facebook, su cui gente scrive o mette delle foto su cui è detto: ma andate a votare, cioè votate chiunque volete, ma non la AfD, perché diciamo, se la partecipazione è bassa, i voti che la AfD, quindi gli estremisti di destra, prendono sono più in alto. E così il risultato dell'AfD e della Linke sembra essere la principale incognita di queste urne, che dovrebbero lanciare Frau Merkel verso il suo quarto mandato in una nuova grosse coalizione, ma che potrebbero far entrare al Bundestag per la prima volta anche forze di estrema destra, xenofoba e nostalgica, insieme ai messaggi che un simile voto di protesta potrebbe mandare dalla Germania all'intera Europa. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.